Benissimo, possiamo iniziare. Stasera abbiamo Marco Pugliese che ci farà una conferenza sui binari a Bolzano, sui tram che c'erano una volta e adesso non ci sono più. È il secondo appuntamento con Marco, che è un appassionato di storia e di foto e fa delle cose interessanti che poi potete trovare anche sul suo sito www.fotobolzano.com se volete approfondire le cose. E niente, noi ci fermiamo con la nostra presentazione per la settimana di carnevale, non facciamo niente, riprendiamo giovedì 1 marzo con Tony Visentini che presenta il suo libro Non siamo l'ombelico del mondo, che è una raccolta di 5 editoriali che mi scrive su Corriere dell'Alto Adige e verrà a presentare questo libro che da noi sarà molto interessante, penso. Grazie di essere venuti anche col freddo e buona serata a voi Marco. Grazie, buonasera, scusate la mia voce ma sono un po' rauco oggi, quindi se a un certo punto sentite perché non sto benissimo. E io ho deciso, vi spiego perché ho deciso di fare una conferenza con un tema così, cioè sono passato dalla storia, chi è stato all'altra conferenza, quindi dall'architettura vera e propria, invece sono passato al discorso proprio specifico sui binari, quindi ho parlato di tram, e perché appunto molte persone di Bolzano, molti bolzanini mi hanno mandato svariate email chiedendomi se effettivamente a Bolzano gli anni che furono ci fossero questi benedetti tram, perché effettivamente di segni non ce ne sono più. E io ricordo quando ero bambino una cosa abbastanza sciocca, però ho questo ricordo dei cubetti, quindi dei San Pietrini davanti alla stazione di Bolzano, che furono inseriti in modo che si vedessero i vecchi binari del trenino del Renault, del primo pezzo del treno del Renault. Io ho questo ricordo perché a me piacevano i treni, quindi ovviamente stavo ad osservare anche queste piccole cose. E mi raccontarono, mio nonno mi raccontò che appunto passava questo fantomatico trenino. E ho scoperto in questi anni, perché appunto ho avuto modo di parlare con alcune persone che vivevano a Bolzano, un paio che adesso non ci vivono più, che mi hanno appunto raccontato di questi collegamenti fatti a inizio del Novecento e completati negli anni fine anni 30 e poi purtroppo dismessi dopo la Seconda Guerra Mondiale e negli anni 60, perché poi il treno del Renault non era un tram vero e proprio, però comunque è stato dismesso negli anni 60. E mi sono meravigliato perché in questo periodo che si riparla di rimettere in discussione il trasporto su gomma, si parla di rimettere in discussione tutto il sistema di comunicazione terrestre, anche di recente il governo aveva proposto delle cose, carichiamo i camion sui treni eccetera eccetera, e ho trovato interessante che esistevano dei collegamenti circa 100 anni fa fatti in maniera e progettati in maniera moderna, cioè nel 1925 una qualsiasi persona si fosse recata a Bolzano avrebbe potuto raggiungere in treno, quindi con un mezzo pubblico adesso detto anche ecologico, svariati punti della città e oltre anche la città, perché esisteva anche un tram che andava fino a Vurza e poi a Laives, quindi esisteva un collegamento che adesso rimpiangiamo. Stesso discorso che vale per il trenino di Caldaro, stesso discorso che vale per il trenino della Val Gardena, per l'Ora Predazzo, quindi la Val di Fiemme, quindi è un discorso che vale per la città, quindi per la città di Bolzano vera e propria, ed è un discorso che vale anche per l'extraurbano. E io in questa conferenza non tratterò Merano, però anche Merano possedeva dei tram. Tra le altre cose, alcune immagini che ho trovato e che mi hanno mandato le ritengo squisite, perché quello che proprio non ho compreso quando li hanno tolti è che questi tram facevano proprio parte della tradizione anche della nostra regione, quindi non sono stati terra, provincia, città, e sono stati dismessi perché dopo la Seconda Guerra Mondiale si puntò tutto ed esclusivamente tutto sul trasporto gommato, anche di persone, quindi passeggeri. E sono andato anche a fare una piccola ricerca sugli orari di questi tram e non ne ho trovati in realtà molti. Mi ha mandato un signore che purtroppo adesso abita, cioè purtroppo, per fortuna per lui perché ha trovato un lavoro negli anni che furono, però purtroppo abita in America, quindi la corrispondenza non è sempre precisa. Lui mi ha mandato un pezzettino di orario del tram che si recava a Gries. Quindi vi era un tram ogni 20 minuti, quindi tutto sommato non era neanche un trasporto poi così lento. Era inoltre presente anche una corriera, e questo l'avevo trovato anche in un libro, era presente anche una corriera che partiva da Piazza Walter negli anni 30 e portava le persone davanti al Lido quando facevano le feste danzanti. Quindi una tradizione che non era poi così nuova quando l'hanno riproposta negli anni 2000, e che il Lido, io avevo proposto al Lido di fare una serata dove con delle fotografie si potesse ricordare quel periodo, però non c'è stato, poi hanno cambiato anche la gestione, quindi non c'è stato. Riproverò a farla perché comunque credo che sia un patrimonio comunque della nostra città, che non dovrebbe andare perso, insomma, che anche chi è più giovane si renda conto che c'è una memoria storica anche a Bolzano. Cioè, si parla di molte volte di memoria storica che non c'è qui, ma non è vero, c'è, come, basta comunque tirarla fuori. E, ritornando al discorso dei tram, io mi sono semplicemente basato su delle fotografie che mi hanno mandato, e avevo scritto anche un piccolo articolo che è apparso su Qui Bolzano, appunto parlando di rotaie e Bolzano, e questo articolo ha avuto un discreto successo perché appunto un sacco di persone mi hanno proprio chiesto di entrare proprio nello specifico. Adesso io questa sera vi anticipo, non entrerò a parlare di tecniche ingegneristiche, di scartamenti ridotti, e di locomotori, eccetera, perché credo di affrontare questo argomento in maniera un po' più, non dico frivola, però un po' più a livello di idea, cioè il perché sono state costruite queste vie di comunicazione, che poi sono andate purtroppo in decadenza e sono state dismesse, e il perché in quel periodo si è deciso di puntare sul treno e non su qualcos'altro, e il perché sono state create delle direttrici vere e proprie dalla città di Bolzano, quindi dal centro della città, verso l'esterno, quindi verso non dico la periferia, però verso zone che abbiamo vicine. Ad esempio questo è il trenino del Renon, e lo stanno sistemando i binari in questa foto, quindi è una foto molto vecchia, e questo è un po' il simbolo, secondo me, del trasporto bolzanino, perché il trenino del Renon, che per fortuna un pezzo lo possiamo ancora ammirare oggi, quindi anche se ci sono due carrozze che sono state comprate negli anni 60, sarebbero delle carrozze tedesche, però vabbè, se non si entra nel dettaglio, però comunque il tracciato è quello. Chi prende la funivia e ha voglia di guardare può vedere il vecchio tracciato, si vede ancora, io ho provato a farmi un giro e ho visto che si vede ancora, quindi insomma si riesce a vedere. E il perché della costruzione è semplice: il Renon era anche all'inizio del Novecento un luogo dove si diceva ci fosse aria buona, si diceva si potesse guarire di tubercolosi, quindi comunque persone che venivano a Bolzano poi si recavano lì, solo che il viaggio in carrozza era abbastanza arduo. Si pensò di costruire questa ferrovia. Questa ferrovia però nacque tra le polemiche, perché è curioso, ma il giornale dell'epoca riporta dei tafferugli veri e propri tra la popolazione del Renon, il tutto l'altopiano unita, e in sostanza le autorità dell'impero austro-ungarico. Perché? Perché il Renon era considerato un luogo un po' d'élite, ci andavano un po' le persone di un certo livello, e quindi si aveva paura che con questo trenino ci arrivasse il turismo cosiddetto di massa, che ovviamente il turismo di massa d'inizio Novecento è il turismo elitario di adesso, forse anche meno. Quindi c'era già però questa contrapposizione: non vogliamo che diventi un luogo di perdizione turistica, ma vogliamo mantenere la nostra elite. E infatti questo trenino nacque tra le polemiche, e venne poi soppresso perché ritenuto appunto lento, pericoloso. In realtà pericoloso perché la manutenzione non venne fatta sempre in maniera adeguata per svariati motivi, appunto si, in quegli anni lì si cercava di tagliare i fondi venivano destinati a queste opere ritenute ormai obsolete, cioè delle opere che a inizio del Novecento erano ritenute di una modernità incredibile, perché Bolzano ebbe funivia, trenini, tram, quindi in piena espansione dopo la rivoluzione industriale, ebbe una città abbastanza piccola, perché comunque l'impero austro-ungarico contava realtà ben più grosse rispetto a Bolzano, comunque una città dove gli esperimenti urbanistici e gli esperimenti tecnologici, perché questi erano esperimenti tecnologici, fiorirono in quell'età. La Belle Époque, che 100 anni fa finiva, perché in storia di solito la si fa finire con il naufragio del Titanic, la sfida dell'uomo alla natura finisce nel 1912 e ci rendiamo conto che insomma non siamo onnipotenti. Quest'anno siamo nel 2012 e sono giusto 100 anni fa, però questo slancio di modernità, di tecnologia, a Bolzano ci fu, ed è giusto sottolinearlo in un periodo storico comunque abbastanza particolare, perché si era prima della prima guerra mondiale, quindi con certi preconcetti, con certi ragionamenti eccetera, però ci fu questa esplosione di modernità. Mi soffermo un attimo sul tram. Adesso, questa è una cartolina ad esempio di Bolzano, ed è una cartolina dove vengono appunto evidenziate, a me piaceva perché vengono evidenziati un po' tutti gli aspetti della nostra città, cioè vi è la città vecchia, la città nuova, e c'è il tram, c'è il trenino del Renon, c'è il monumento alla vittoria, per dire, c'è il Duomo, quindi vengono riuniti un po' tutti gli aspetti della nostra città che sarebbe stato bello mantenere, non dico tutta la rete, però almeno un pezzettino, un qualcosa. Io spesso mi sono immaginato il treno che è stato soppresso, appunto, che andava a Caldaro, me lo sono immaginato prima che venisse fuori sul giornale rifacciamo eccetera, me lo sono immaginato durante il mercatino di Natale con il paesaggio verso Caldaro, quindi credo che i turisti avrebbero fatto carte false per salirci, o il trenino della Val Gardena, sarebbe stato un altro trenino. Prego. Devo chiedere, a me risulta, io non ero a Bolzano in quel periodo, che uno dei motivi per cui è stata tolta la tranvia del Renault per l'incidente, un grosso incidente, sì, è vero. Con morti. Mancato il funzionamento dei freni. Sì, si era rotto un freno. Ho una testimonianza diretta, era mio nonno, una testimonianza diretta che lavorava in stazione, però lui, ecco, però scaricava i soli treni. Ha sempre voluto passare nelle ferrovie, ma non li hanno mai passati per questioni contrattuali. E lui, quando ero bambino, appunto, mi ha sempre ricordato questo episodio, perché quel giorno che successe questo fatto tragico vennero chiamati anche gli operai della stazione per dare una mano a recuperare. Ma che anno questo? Negli anni 60. In circa verso la metà degli anni 60. A che altezza? È proprio, guardi, nella fotografia. Vede in questa, esatto, Super Santa Maddalena, prima della curva, in pratica. E dove la tendenza aumenta, sì. Lo ricordo, e come? Sì, ci furono morti, quindi come al solito quando c'è un grande shock si decide poi di valutare. Normale, no? Si decide poi di prendere la strada che sembra più. Esatto. Ecco, anche quello fu. Io infatti. Esatto, anche quello era la cremagliera del Virgolo, anche secondo me, anche quello è un discorso un po' emblematico, perché il Virgolo, chi parte va verso Trento e prende il treno, lo vede meglio, vede proprio che c'è ancora il ponte di questa cremagliera, e se fate una passeggiata sulla vecchia ferrovia di Merano, cioè sul vecchio pezzo della ferrovia di Merano che adesso è ciclabile, dove c'è il ponte giallo, vi accorgerete che proprio la montagna è quasi, sembra tagliata, in realtà lì ci saliva appunto la cremagliera, e costruita sempre in questi anni, quindi all'inizio del Novecento, che è stata però, quella è stata bombardata e poi hanno deciso di farci una funivia, quindi bene o male diciamo, è più capibile tirarla via, anche perché logisticamente sarebbe stato un po' un problema tenere lì la stazioncina. E durante il fascismo si pensò di tenerla lì semplicemente perché la stazione l'avrebbero voluta spostare al Ponte Roma, quindi il discorso sarebbe stato diverso, perché appunto la stazione poteva rimanere tranquillamente dove era, e a Ponte Roma sarebbe stata la nuova stazione, quindi bene o male durante il fascismo non l'avrebbero spostata. Dopo la seconda guerra mondiale è stata bombardata perché il Virgolo ha ricevuto purtroppo parecchie ferite in quegli anni lì, è stata distrutta e quindi è stato ripristinato il collegamento, però con la funivia. Il Virgolo purtroppo è il buco nero, diciamo, della nostra città, perché è un luogo che è stato abbandonato e che potrebbe invece dare tanto alla nostra città in termini turistici, in termini insomma di paesaggio, in termini potrebbe essere recuperato. C'è qualche politico che non vuole. Le questioni qui non sono. Ecco, infatti vi avevo apposta messo la funivia per farvi vedere anche, vedete lo squarcio, no? E io credo che forse questa è l'unica ferrovia che è stata dismessa e che ha avuto un motivo veramente valido per essere dismessa, perché chiaramente dopo la seconda guerra mondiale i costi di recupero, di ricostruzione erano abbastanza alti, quindi insomma hanno preferito adottare questa soluzione. Comunque non hanno lasciato a piedi nessuno, nel senso che hanno comunque costruito insomma hanno avuto almeno l'idea di non lasciare a piedi nessuno. Ecco, questa immagine è di Arenon, io l'ho presa solamente perché sotto queste macchine d'epoca ci sono i binari, si intravedono i binari. E questo era il trenino della destra. Prego? Sinistra. No, a sinistra c'è la stazione. C'è la stazione. No, Vittoria è dopo. Sì, adesso c'è il palazzo della provincia. Adesso c'è il palazzone della provincia, l'entrata qui, adesso c'è l'entrata del parcheggio, sì, del palazzone della provincia. Questo palazzo qui c'è ancora. Dove c'è il balcone c'è ancora. È stato anche quello un po' scempiato perché ci hanno fatto un'entrata che non va d'accordo con tutto il resto, però non l'hanno buttato giù. Il resto purtroppo è stato buttato giù. È il discorso un po' che avevo fatto l'altra volta, secondo me a Bolzano insomma hanno fatto una cernita un po' fatta un po' così, perché questo non è un periodo storico che bene o male, pure è stato eliminato anche questo, quindi ecco, questo per esempio era il tram che andava verso Gries, perché questo è un tram che venne costruito semplicemente per funzionalità. Cioè Gries era un comune a sé stante, prima dell'avvento del fascismo, Bolzano era un comune a sé stante, la stazione di Bolzano si trovava praticamente in campagna, perché il centro storico di Bolzano, se voi notate, è distante dalla stazione, cioè ovvio a piedi non ci si piega molto, però a quel tempo immaginate i giardini della stazione e basta, quindi c'era la stazione, ci sono alcune immagini che dopo vi farò vedere, c'è la stazione un po' persa, il centro storico e poi c'è Gries doveva essere collegato perché era un comune dove vi erano un sacco di ambienti, cioè di case di cura. Quindi chiaramente le persone malate, ma anche semplicemente i turisti pochi del tempo, dovevano comunque recarsi fino lì, e il tram serviva proprio funzionale a quello, quindi non aveva motivo che se non la funzionalità. Un tram che durante il fascismo venne un attimino deviato, però bene o male il tracciato rimase quello, venne ricostruito in piazza Gries, venne ricostruito il capolinea, infatti poi vi ho messo anche delle fotografie, venne ricostruito il capolinea, però rimase, bene o male, rimase il tracciato. Gries venne inglobato a Bolzano, ribattezzato Tiberio, ovviamente il fascismo dava nomi romani, quindi il rione era il Tiberio, e quindi però la linea venne mantenuta, quindi durante il fascismo la linea venne ampliata in realtà, perché appunto ci fu il collegamento Burza-Lives, non venne tolto nulla, venne ampliato, anzi venne a dire, adesso questo devo aprire una parentesi, la zona industriale piena di binari, quindi i treni vennero utilizzati, c'era uno scambio, uno scartamento che andava verso verso la zona industriale, quindi lì comunque a lì per motivi industriali, però comunque sempre utilizzato il treno. Quindi il fascismo puntò sulle ferrovie. E dopo la guerra, che per motivi vari, economici più che altro, perché si pensava che non... ad esempio ho letto un sacco di articoli che parlavano di questo trenino della Val Gardena, perché in Val Gardena comunque era molto sentito, stava molto a cuore ai gardenesi. L'ultima corsa che fece nel 60 la locomotiva venne riempita di fiori, qualcuno si mise pure a piangere, quindi insomma era un trenino che era nel cuore, e quel treno lì funzionava per i collegamenti sì di passeggeri, però quello che lessi io nel rapporto delle FS, addirittura la locomotiva era stata mandata a Verona in riparazione e risistemata, grande riparazione si dice quando viene proprio risistemata. Quindi la ferrovia non aveva nessuna intenzione di chiudere, perché poi avevo letto da qualche parte ma le FS in quel periodo aprì, no, le FS in quel caso lì non fecero proprio nulla, anzi ci fu a Verona chi sostenne, come questo ingegnere che ha scritto questo libro, Muscolino Piero, sostenne appunto di non chiudere quel tratto, perché per motivi turistici avrebbe potuto tranquillamente essere ripristinato, rimodernato e utilizzato nella stagione magari invernale, magari con meno convogli, però comunque ripristinato, come il trenino del Renon, tutto lì. Ma coesistevano altri mezzi di trasporto tipo carrozze o... Sì, esistevano a Bolzano delle corriere. Delle corriere durante il fascismo, vi erano delle corriere. No, prima c'erano delle carrozze. C'era a Bolzano, c'è stato anche un tram a cavalli, due tram a cavalli, che è tra i primi proprio tram a cavalli che mi hanno solcato la nostra regione, ma durarono poco, perché l'idea iniziale fu quella, tram a cavalli nel pezzo di Città Vecchia, quella era l'idea iniziale, e tram elettrificato fuori, perché nella Città Vecchia era abbastanza stretto il passaggio, quindi si credeva col cavallo. In realtà poi non venne fatto per pochissimo tempo. Altri mezzi di trasporto? Qui non prego. Vedo linee aeree, sono fili che sono... Si vede però non... In realtà sono tirati sul ponte, si vedono dopo. Ecco qui, questo qui era il pezzo che avrebbe dovuto essere con traino a cavallo, perché per ovvi motivi, proprio, qui vi parlavo del primo progetto iniziale. Qui non so se avete riconosciuto. Esatto, questo è Leonardo da Vinci, che è cambiato un pochino l'architettura. Io quando vedo queste immagini un po' mi viene... Leonardo da Vinci, sì, vista da via Goethe. Esatto, vista da via Goethe. E a vedere queste immagini un po', ritornando all'architettura, un po' mi viene da pensare, perché io ho dato un'occhiata a questo libro che purtroppo ho trovato negli ultimi due giorni nella biblioteca della mia scuola, e non l'avevo trovato da nessuna parte, e parla appunto di tram, parla e ci sono delle bellissime immagini di tram dismessi o ora dismessi a Bologna, a Firenze, eccetera. Quello che mi fa specie è che i palazzi sono completamente uguali, cioè io sono stato a Firenze di recente, sono stato a Bologna, quindi i palazzi li riconosco tranquillamente che sono la mia città. A Bolzano invece ho fatto una leggera fatica delle volte a ricollocare le immagini che mi hanno mandato, e ho fatto delle prove e... mi sono un po' odiato, perché quelle persone che non vengono a Bolzano da 50 anni probabilmente ci sono rimaste male. Ho mandato delle immagini scattate da noi, moderne, quindi del 2010 erano quelle immagini, a questi signori, queste signore che mi hanno mandato immagini vecchie, e gli ho fatto vedere che cosa abbiamo combinato noi bolzanini della loro città. E una persona mi ha risposto anche con delle parole... non molto, non posso ripeterle a una conferenza, comunque mi ha fatto capire che non era molto d'accordo con quello che è stato combinato. E io qui parlo solamente di città, quella che noi i bolzanini chiamiamo, andiamo in città, Città Vecchia, non parlo quindi di periodi che vengono poi considerati di grande cambiamento, come dal 22 al 42, quindi sto parlando di periodi pre, è stata modificata anche quell'architettura lì. Non nel periodo 22-42, cioè qualche caso sì, ma poco, ma sta modificata dopo, è quello che delle volte non riesco proprio a capire, perché comunque questa è un'architettura detta la chiameremo mitteleuropea, un'architettura che troviamo se andiamo a Salisburgo, e, non so, i tram colorati, e se si va a Linz, se si va a Salisburgo ricordano molto i tram di Bolzano. Quindi dopo la seconda guerra mondiale si è cancellato anche quell'aspetto della nostra città, il periodo del fascismo in parte è stato cancellato in parte, perché comunque qualcosa c'è ancora, però questo periodo qui e i tram ne erano il simbolo, è stato spazzato via, e addirittura non vi è memoria storica, perché ripeto, non vi è memoria storica neanche delle persone che abitano a Bolzano, cioè tante persone non sanno proprio che esisteva un tram, che c'era un collegamento fino all'Aives. Io ho chiesto anche a persone che abitano all'Aives da parecchi anni, non sapevano nulla. Questa è un'immagine emblematica perché è del 1919, come vedete ci sono le bandiere italiane, e qui sta arrivando in visita non è il re, ma sono funzionari dello Stato, e c'è sulla macchina dietro, non su questa, il commissario civile Credaro, che era un signore messo a sistemare le cose nelle zone di un po' contese, no? Perché ancora non si sapeva, non c'era stata quella conferenza di pace, non era stato tutto ancora ultimato, quindi non si sapeva fino a dove il confine sarebbe arrivato, c'era chi lo voleva un po' più indietro, chi un po' più in là, quindi il signor Credaro doveva occuparsi di non far esplodere tensioni nella zona, perché comunque inglesi, francesi, italiani, e seduti al tavolo delle trattative a Parigi si stavano mettendo d'accordo. Questa immagine a me aveva colpito perché è stata scattata pochi giorni prima che il nostro ministro degli esteri, Sandey, il nome era Sonnino, se ne andasse via per protesta dalla conferenza di pace, cioè conferenza di pace, tra virgolette, conferenza di arraffamento territori nuovi di Parigi, e che ebbe un grande scontro col presidente americano, con un emissario del presidente americano Wilson, che diceva no, ma voi dovete mettervi d'accordo, intanto lui però si sistemava le cose economicamente. Allora l'Italia disse abbiamo avuto 600.000 morti, noi ce ne andiamo via e ci teniamo lo spartiacque al Brennero, cosa che poi peraltro andò ben così, con tutto quello che ne conseguì, scusate. Ma quindi questa è un'immagine che ha i binari del tram, ma anche questo Credaro che poi venne odiato quasi più dai fascisti, perché appunto ritenuto troppo morbido, e perché appunto con Credaro vi era un'amministrazione bilingue, vi era il sindaco Peratoner che non fu toccato, quindi rimase nel suo municipio. Quindi fino al 22 Credaro con la polizia riuscì a mantenere un equilibrio, quindi non successe chissà che. E dopo il 22 vi fu, io non so, credo che magari tanti qua lo sappiano, ma il focolaio della marcia su Roma, prima della marcia su Roma, venne proprio da Bolzano. Vi fu la famosa marcia su Bolzano con un gerarca poi famosissimo, Achille Starace, che c'è in una fotografia messo davanti. Marciare non marcire è quello degli slogan, fu lui che diede quel tocco di carnevale al regime fascista, che insomma poi viene ricordato più per quello il regime che per altre cose, perché appunto questo signore amava farsi vedere. Vi racconto un piccolo aneddoto su Starace, che forse molti conoscono quello che ha combinato e ne ha combinate, ma non conoscono la sua fine. Lui venne allontanato prima della seconda guerra mondiale dal segretario del partito fascista, proprio cacciato via da Mussolini, che dopo svariati anni si rese conto che gli italiani stessi che prendevano in giro il regime sulle carnevalate di Starace, e il saluto al duce ad esempio irritava Mussolini, era un'invenzione di Starace, eccetera eccetera. Lo allontanò, gli diede sempre incarichi minori, alla fine Starace nel 43 era totalmente quasi povero, perché perfino la moglie lo ripudiò, cioè perfino la moglie e i figli lo vedevano una volta in settimana. Dal 43 al 45 lui rimase a Milano e addirittura venne fotografato ma io sfido, secondo me il fotografo lì non sapeva chi stesse fotografando, mangiare perfino alla mensa dei senza tetto, quindi una fine misera. Nel 45, quindi Starace dal 40 al 45 non commise nessun tipo di nefandezza, perché non fece più nulla, venne proprio allontanato. Siccome lui era un amante dello sport, faceva jogging ogni mattina, gli era rimasta quella fissa, infatti era famoso perché a un convegno di medici si mise a dire: invece di stare qua a chiacchierare dovesse andare a fare jogging come faccio io. Quindi frasi sue ce ne sono tantissime che fanno ridere. E lui venne beccato dai partigiani a fare jogging, un partigiano lo riconobbe e disse: ma quello è Starace, quello che ci faceva mettere in fila, eccetera. Allora lo presero e lo portarono a fare il famoso processo popolare che si faceva a quel tempo, e dove appunto venne condannato a morte. E lui, qui è per far capire la persona, perché secondo me, al di là delle ideologie politiche, vorrei far capire la persona, che probabilmente in molte cose che fece era in buona fede, nel senso che comunque lui credeva in alcune cose che fece, si offrì volontario di rieducare le nuove generazioni, però in stampo comunista. Cioè, ha detto: io mi sono occupato di educazione e in stampo fascista, se volete mi occupo in stampo comunista. Ovviamente si misero tutti a ridere e lo fucilarono poco dopo. Fu coerente comunque fino alla fine, perché non si mise a piangere, non fece scenate, anzi disse: viva l'Italia, viva il Duce, e si fece fucilare. Quindi comunque la fine che fece non fu così ingloriosa come la vita. Lui fu comunque una persona non tanto gloriosa nella guerra d'Etiopia, perché insieme al suo compare Farinacci andò in Etiopia non a fare in realtà la guerra, come fecero tanti nostri militari che si chiamavano volontari, ma in realtà non erano volontari, perché qualcuno mi ha detto: ah, erano volontari. No, non erano proprio volontari. Comunque non parlo della truppa poveretta, parlo di questi gerarchi, insieme al caro Farinacci, che ci lasciò tre dita in Etiopia perché andava a pescare con le bombe a mano. In realtà non le tirava agli etiopi, le tirava ai pesci, poi una gli è scoppiata in mano, insomma, è saltato per aria, non è morto, però insomma ci lasciò tre dita, medaglia al valore, tutte le cerimonie al rientro in Italia. Starace invece ebbe l'idea di scrivere un libro invece su Marcia su Gondar, questa città che venne presa dalle nostre truppe. In realtà entrarono semplicemente, non ci fu battaglia, lui alla testa di queste truppe venne fotografato anche in varie posizioni. E questo libro ovviamente durante il fascismo era molto famoso, molto famoso. Quindi questi piccoli aneddoti solo per spiegarvi che delle volte da una foto si può arrivare magari a parlare di altro, quindi dai tram a Starace. Ecco, anche questa è una foto emblematica secondo me, perché è la posa dei binari, quindi qui il tram è stato appena, e si vede anche, si scorge anche un sacerdote in lontananza. Qui il tram è stato proprio appena ideato, quindi da poco, siamo ancora durante l'impero asburgico. Quindi qua vediamo se qualcuno riconosce la via. È via della mostra. Qui si riconosce già di più, è cambiato un po' il portico, però. Ma ha cambiato tutto anche la parte sinistra, sì. Perché la destra più o meno ci sono ancora quei. Però sì. C'è il bar Monica. Esatto. Forse è prima. Sì, è ben scattata un po' più. Sì, è scattata un po' dopo, dove adesso magari c'è. Qui diciamo c'è il Monica. Sì. Però comunque è cambiato. Sì, è stata allargata. Esatto, sì. Sì, ecco, dopo la seconda guerra mondiale è stata risistemata. Sì, diciamo che alcune cose sono dovute per forza cambiare, perché comunque i bombardamenti a Bolzano furono pesanti e la zona della stazione fu martoriata, perché appunto gli alleati conoscevano lo snodo del Brennero, che quindi veniva bombardato di continuo, e quindi molte bombe finirono dove non dovevano finire, perché gli intelligenti non lo sono mai state. E purtroppo appunto alcune, ad esempio il Teatro Verdi, vecchio Teatro Verdi che si trovava vicino alla stazione di Bolzano, fu completamente raso al suolo durante la seconda guerra mondiale e non più ricostruito, nel senso che in quel luogo lì non fu più costruito un teatro. E il teatro di oggi è diverso, ha un'architettura diversa da quello. Quello era veramente un bellissimo teatro. Purtroppo venne distrutto durante i bombardamenti, quindi lì non c'entrano niente le amministrazioni bolzanine del dopoguerra. Ecco, questa è un'altra immagine del tram. Come vedete, proprio andava in mezzo alla città vecchia, quindi io credo che c'è stato un momento in cui nella città vecchia ci andavano le macchine, però adesso che non ci vanno più avrebbe potuto avere anche un senso mantenere forse un qualcosa di turistico. Vedo che era un binario unico. Sì, aveva ogni tanto, adesso infatti farò vedere, c'erano ogni tanto, ad esempio prima del Ponte Talvera, sul Ponte Talvera vi erano due binari e poi si riunivano. E la cosa che volevo anche raccontare, di cui purtroppo stasera non ho l'immagine perché il signore che me la doveva mandare non è riuscito ad allegarmela, sono dei bozzetti dello stesso Piacentini, quindi dell'architetto che si è occupato di Bolzano in quegli anni, di una stazioncina che avrebbe dovuto, del tram, che avrebbe dovuto essere edificata vicino a Ponte Resia, perché il tram durante il fascismo avrebbe dovuto arrivare fino lì. Chiaro che dopo non lo costruirono più perché le cose andarono come andarono, quindi durante la guerra vennero bloccate delle opere, a Roma venne bloccato l'Eur, qui da noi vennero bloccati i lavori qua agli uffici finanziari. Infatti la barzelletta del Mussolini a cavallo viene proprio da lì, perché il Mussolini venne messo dopo la guerra lì sopra, non prima. Quindi ci furono quindi dei blocchi, perché ovviamente i fondi dovevano essere destinati all'industria bellica, a questo, a quello, a quell'altro, insomma non vi era tempo per costruire. Purtroppo ci fu solo tempo per distruggere in quel periodo, per motivi. Ecco, questa per esempio anche è un'immagine molto bella del tram che va verso Ponte Talvera. È un'immagine, secondo me, che rappresenta molto il periodo storico in cui il tram è stato ideato, perché c'è vicino un museo, e il museo è una costruzione che all'inizio del Novecento comunque evoca un certo amore appunto per la storia, vi è a fine Ottocento un rifiorire di amore per la storia, eccetera eccetera, quindi c'è la tecnologia e la storia, quindi la tecnologia che ti porta anche in vari posti. Questo concetto, che adesso sembra scontato, a quel tempo però era tutt'altro che scontato, perché la tecnologia era vista magari come un qualcosa che doveva servire per o scopi bellici, perché siamo andati avanti a progettare armi nella nostra storia svariate, cioè sempre, anche tuttora ci sono gli studi per le armi, sono sempre avanti, oppure si scopre tal vaccino perché c'è l'arma batteriologica fatta così e fatta colà. Quindi la tecnologia quindi messa al servizio, non dico della massa perché a quel tempo di massa non si può parlare, però messa al servizio della società civile, se non altro, non più quindi bellica, anche se i trenini che vennero costruiti, che andavano appunto Val Gardena eccetera, partirono dall'uso bellico, perché l'esercito austro-ungarico, per portare le armi su per le valli fino a un certo punto, poi le faceva portare ai soldati, utilizzò appunto i trenini, quindi sono dei trenini di concezione bellica, non civile. Qui invece abbiamo proprio un tram, questo secondo me è proprio il tram funzionale, quindi fino a Gries per i sanatori eccetera eccetera. Faceva, adesso io ho visto delle foto l'altra, sì, volta la costruzione di Corso Libertà, no? Sì. Ma lì insistevano delle rotaie. Sì, lì il fascismo le mise. Praticamente. Ma prima? Prima facevano il giro. Allora, prima erano sempre in realtà. Allora, Corso Libertà era in realtà una statale prima dell'arrivo del fascismo. Era la statale. Merano. Andava poi verso l'ospedale, cioè il nuovo ospedale, eccetera. E il fascismo invece la inglobò dentro nella città e la riutilizzò come direttrice arteria proprio principale, quindi fece questo discorso di raggi, perché sì, ma il tram, e il tram passava sempre di là, passava sempre di là dritto, non è che non fosse il giro. No, è durante il fascismo che gli hanno fatto fare un pezzettino e poi l'hanno fatto rientrare non in piazza Mazzini ma prima, quindi dove c'è adesso, dove c'era prima il cinema Corso, in pratica dove c'è adesso, faceva quel giro lì e rientrava e poi se la faceva tutta fino in piazza Gries. Pensavo che passasse da lì. No. Piazza, no, dei comandi, che girasse. Infatti ho una foto con, c'è una penso una camicia nera in bicicletta e c'è il tram che va proprio, ecco, questa è la stazione di Bolzano che l'ho messa appunto perché qui è già risistemata questa stazione del sapere a Mussolini proprio non stava simpatica, perché anche risistemata, secondo lui era comunque troppo tendente a un'architettura che a lui non piaceva tanto. Quindi era una stazione, tra virgolette, che doveva rimanere così per qualche anno, e dopo appunto si avrebbero dovuto ricostruirla a Ponte Roma e farla più grande, più moderna, eccetera. Ci sono vari studi che sono stati fatti su quel tipo di costruzione che doveva essere fatta, perché comunque è un po' particolare. Adesso può ingannare, secondo me, pensare alla stazione lì perché c'è l'autostrada, però a quel tempo non c'erano viadotti, non c'era l'autostrada, non c'era l'arginale, non c'era niente, quindi c'era un bello spiazzo, e la zona industriale iniziava un po' dopo, quindi via Galileo Galilei era sistemata in maniera diversa, quindi lì la stazione, se voi fate bene a caso, ci sarebbe stata in un certo modo. Anche perché io ho visto qualche progetto rarissimo, perché purtroppo delle cose che si dovevano fare non è rimasto molto, qualche progetto rarissimo, e si pensava di fare una stazione civile lì, una stazione dedicata al commercio, quindi ai piani, e una stazione prettamente militare addirittura si voleva fare. Perché? Perché in quel periodo era in costruzione il famoso vallo, quindi quella serie di bunker, no? Il vallo del Brennero, che adesso stanno anche quello dismettendo, e tanti bunker vengono o bonificati o demoliti. Ecco, in quel periodo era in costruzione quello, quindi il discorso di ferrovia militare ci stava tutto. Chiaro che adesso magari può sembrare, e anche perché comunque venivamo da un certo tipo di industria bellica negli anni 20, che puntava, gli anni 10 anzi, che puntava molto su cannoni trasportati su rotaia. Infatti, se qualcuno a qualcuno viene in mente di foto della prima guerra mondiale, questi cannoni li vedete più che altro sul fronte franco-tedesco, venivano trasportati dal locomotore, quindi c'era cannone sul binario, addirittura poi veniva bloccato sul binario con delle ganasce e fatto sparare direttamente dal binario. Oppure a seconda poi del grado, perché poi ovviamente non è che sparava a caso. Comunque veniva, quindi l'industria bellica stava progettando un qualcosa di funzionale ai binari. C'era sia l'industria aeronautica che bellica, che andavano ovviamente a passi da gigante, perché durante la guerra, come sapete, le scoperte tecnologiche servono, quindi gli inventori, gli scienziati sono sempre in movimento. La mongolfiera, ad esempio, nella prima guerra mondiale era utilizzata per controllare gli schieramenti da lontano. Nell'Ottocento ci avevano già pensato a una roba del genere. Nella prima guerra mondiale iniziarono a utilizzarla, poi vabbè, ci sono stati gli aeroplani, quindi c'erano dei treni corazzati. Cioè, treni corazzati, che adesso, non, vedendo quelle immagini, non ti riesci a spiegare il perché, perché essendo su un binario, però a quel tempo, guardando i fronti di guerra, si capisce il motivo. Venivano messi in mezzo alle truppe perché era una guerra di posizione, quindi una guerra lenta, che va avanti metro per metro. Quindi con un treno corazzato, non avendo i carri armati, potevi andare avanti, buttavi i binari, trinceravi, buttavi i binari, trinceravi, buttavi. Era una guerra così, per un metro morivano 200-300 persone, quindi Cadorna era un esperto di macelleria militare, anche Diaz, però Cadorna un po' di più. E questo è il parcheggio dello stadio Druso, e l'ho messo perché a fianco c'era la ferrovia che andava verso Merano, e che il sindaco di Bolzano, che secondo me aveva avuto una buona idea, non voleva tirare via del tutto. Disse: sì, facciamo una ciclabile, facciamo qualcosa, però manteniamo il binario e facciamo un piccolo tram che arriva fino alle zone popolari, quindi al rione ex Dux, quindi delle semirurali, quella zona lì, dalla stazione. Sembrava che avesse detto una follia. Adesso stanno impiegando 2 anni per costruire una stazione al Firmian, quindi voglio dire che quei binari forse potevano ritornare in auge. E quindi qui lo spiazzo è bello vuoto, adesso hanno messo quei fari orribili, però vabbè, per motivi di sicurezza. Quello che mi colpisce sempre da queste fotografie è com'era senza macchine. Eh sì, pochissime macchine, siamo negli anni 30. Questa è un'immagine di treni, ed è, io l'ho messa perché questo è l'esercito austriaco in rotta, Quindi delle volte sì, io ho letto anche qua a Bolzano dei memoriali sulla prima guerra mondiale, perché un aspetto che a noi riguarda molto in questa zona di confine. Si parlava di ordinata ritirata delle truppe austro-ungariche, che fiere nelle loro riforme se ne tornavano oltre al Brennero. Invece tutte le fotografie che si trovano su questa ritirata fiera sono un po' così, ma è capibile, io capisco, questi erano ragazzi che volevano tornare a casa, quindi io sono con loro, non sono mica con... però queste erano le fiere, ovviamente è cascato il palco, ce ne torniamo tutti a casa. Tutti rimasti macellati sotto le gallerie. Tanti ne morirono così, poveretti, ne morirono così perché sui treni non ci fu spazio. Dobbiamo metterci anche nei loro panni. Stava arrivando un esercito invasore, nel senso, comunque gli era stato raccontato, come in ogni guerra venivano raccontate bugie, quindi sembrava che l'esercito italiano potesse fare chissà quali nefandezze, quindi chiunque pensò bene di andarsene. E questa scena mi ricorda molto la guerra nel Pacifico, perché i giapponesi, quando vedevano gli americani, preferivano uccidersi, perché gli avevano raccontato che si mangiavano, erano cannibali. Uccidevano così tanto per... quindi io mi immagino questi soldati con un certo tipo di ragionamento hanno detto: beh, qui gli abbiamo sparato fino all'altro ieri, non sarà un'occupazione pacifica. E l'odio dei due paesi in quel momento era altissimo, la tensione in quel momento era altissima, nonostante l'armistizio, nonostante la fine della prima guerra mondiale. Per fortuna in Italia non vi erano ancora dittature, non vi era nulla. E appunto il signor Credaro fu invece una persona molto competente nel gestire, si gestì la grana Tolomei benissimo, perché ricordatevi che c'era Tolomei, che comunque a quel tempo non era considerato proprio l'ultimo arrivato, e Tolomei appena sentì il bollettino della vittoria vuole subito a Bolzano a dettare legge, facciamo, e Credaro non gli fece fare nulla, ci fu poi il fascismo che gli fece fare fino a un certo punto, perché poi anche lo stesso Mussolini si stancò di delle continue pressioni di Tolomei, che considerava una suocera. Sì, pedante suocera, quindi insomma stava antipatico D'Annunzio e Tolomei. D'Annunzio per motivi, perché c'era sempre il rischio che rubasse la scena a Mussolini, quindi non sia mai eccetera, quindi insomma. Quindi questa era un'immagine che ha a che fare sempre con i treni. Questa è l'inaugurazione del Monumento alla Vittoria, quindi qui vedete, prima il signore diceva, qui invece si vedono i fili del tram, no? Sopra. Si vedono, e qui il tram, adesso qui purtroppo non si vede, però ci sono gli scambi, da una parte c'è un binario, che vediamo se adesso trovo l'immagine, ecco, qua vedete i due binari, questo è il binario che va in su e quello è quello che va in giù, quindi verso destra, qui sempre l'inaugurazione, sempre quel giorno, e c'è addirittura, se qualcuno vuole vederlo, un filmato su questo giorno dell'Istituto Luce, anche su YouTube. Se scrivete inaugurazione Monumento alla Vittoria, lo hanno messo. Sì, magari non leggete i commenti, perché poi ti viene da piangere quando leggi certe cose, però il filmato è originale e non è neanche fatto poi così male, quindi è un filmatino ovviamente con la voce del regime impostata eccetera, però comunque è un documento storico, quindi insomma, se qualcuno ha tempo di guardarlo, ecco, qui si vedono anche i due binari. Questa è una Ponte di Gries, c'è scritto in questa fotografia, non c'è scritto Ponte Talvera, il Ponte di Gries, perché il Ponte Talvera venne costruito costruito in muratura, c'era in legno prima, venne costruito per dare il passaggio verso la zona di benessere della nostra città. E sul Ponte Talvera ci sono svariate leggende, un po' di tutte le epoche, ve ne è una anche sui reti romani, su Druso eccetera eccetera, quelle magari ve le racconto un'altra volta, però comunque è un ponte che non sembra, ma è legato molto alla nostra storia, e anche questo non viene detto, alla storia, parlo totale della nostra città, non soltanto del periodo antico arcaico. Ci sono delle bellissime, ho scovato dei bellissimi aneddoti di, non dico proprio del Ponte Talvera, ma di questo passaggio sul Talvera, quindi sembra che Druso sia passato di là con il cavallo dove c'era la confluenza tra Isarco eccetera, quando passò nella nostra vallata. Sì, contate che come ogni buon romano aveva dietro delle persone che scrivevano le sue gesta e che amplificavano in maniera esagerata, e c'è stata però una storiografia di contrappasso, quindi che ha comunque cercato di dare un risvolto storico a questi aneddoti, che effettivamente descrive Druso come un personaggio bene o male effettivamente dotato di coraggio, di carisma, di bellezza, come ci dicevano i cronisti del tempo, e che effettivamente lui avesse l'abitudine di marciare davanti alle proprie truppe, perché tanti generali romani non è che a parole, però poi nella realtà erano i centurioni e gli ufficiali che marciavano davanti, stavano abbastanza nelle retrovie. Lui invece aveva questo modo, di suo padre Augusto gliel'aveva trasmessa questa cosa, anche se lui era uno che insomma a marciare non è che piacesse molto, e infatti, perché appunto aveva la mania di marciare, era un grande appassionato di ingegneria, perché costruì un sacco di ponti sul Reno, scivolò da cavallo e si ruppe un'anca, sembrava una cosa di poco conto, morì un mese dopo, e andò suo fratello Tiberio a provare a salvarlo con un medico, però morì poi poco dopo, purtroppo per lui. Quindi, e c'è un aneddoto appunto che parla di questo personaggio storico, che comunque Druso è comunque legato alla nostra provincia, cioè la nostra regione, la nostra città, nel senso che, ecco, questa è una bella immagine. Ci sono i due tram, il 53 appunto che va verso Gries e l'altro che va verso la città. Questa è una cartolina immagine, dietro c'è lo sfondo Rosengarten. Quindi, ripeto, sarebbe stato suggestivo tenerli in una città come la nostra. Sì. Molto suggestivo. Ecco, questi sono i binari che erano presenti in Piazza Walter. Questi sono i due binari, e io mi ero chiesto all'inizio, ok, uno è il trenino del Renon, e l'altro era il binario che andava verso il Ponte Loreto e andava verso San Giacomo, l'Aives, eccetera, eccetera. Cosa che io non sapevo neanche io, me la sono andata a trovare per caso, l'ho trovata su un giornale d'epoca, la provincia di Bolzano, dove parlava di inaugurazione, un trafilettino parlava di inaugurazione, e c'era però per fortuna tutto il tracciato, quindi parlava di Piazza Walter, Ponte Loreto, San Giacomo, e poi proseguiva per l'Aives con l'ultimo pezzettino che venne costruito nel 1940, dismesso nel 48 purtroppo. Ecco, questa è un'immagine che è di inizio Novecento, un'immagine cartolina perché poi è stata risistemata, che ci fa vedere appunto verso il Palazzo Campofranco, dove adesso ci fanno le feste, e ci fa vedere appunto i tram che arrivano in Piazza Walter. E quindi le persone, perché Piazza Walter a quel tempo era una piazza molto popolata, effettivamente questa non è un'immagine, cioè un'immagine che dà molto secondo me l'idea di come fosse Bolzano a quel tempo lì, anche negli anni 30 mantenne un po' quell'aspetto da belle époque, quell'aspetto da città un po' particolare in mezzo alle Alpi. Io ho alcune testimonianze dirette che erano dei miei nonni, quindi avevo chiesto una volta, avuto il lume della ragione, a mia nonna cosa aveva provato scesa dal treno. Lei arrivava da provincia di Padova nel 32, si è trovata a 16 anni in una città come Bolzano, abitava anche in via Grappoli, quindi abitava in centro storico, e si è trovata una città, lei continuava a dire che era bellissima, incantevole, con i tram, con questo, con quell'altro, e poi invece durante la vecchiaia spesso evitava addirittura, e non era l'unica del cortile, mi ricordo questa cosa che mi aveva colpito da bambino, evitava alcune vie di Bolzano perché erano state modificate. C'era qualche anziano, non solo italiano, anche di madrelingua tedesca, e poi secondo me anche chi è di madrelingua tedesca va a vedere certe immagini gli viene nervoso, perché erano delle costruzioni validissime che sono state così cancellate per far posto oggettivamente. Ecco, questi erano i due binari, era un binario che poi diventavano due. Esatto, questo è l'albergo Vittoria, che è stato ovviamente è stato demolito, perché figurarsi tenerlo avrebbe fatto. Ecco la stazione, e questa è il campanile della stazione, molto all'inglese, l'ingegnere che lo progettò, l'architetto che lo progettò aveva una passione per le stazioni inglesi, anche perché erano un po' in quegli anni lì le stazioni inglesi erano insomma la modernità, quindi avevano questi campanili. Se voi fate caso, se guardate qualche cartolina di stazioni di un certo periodo inglesi, loro le hanno mantenute, però non le hanno demolito come da noi, le hanno mantenute e i campanili erano proprio una caratteristica della stazione all'inglese. Ecco, qui è dove vi dicevo, qui durante il fascismo vennero rimessi a posto i binari e dopo, adesso poi andrò avanti un po' più velocemente, c'è la biglietteria ancora adesso, esatto, dove adesso infatti stavo per dirlo, bravo signore, e lì appunto c'era il capolinea, però che se voi vedete è stato allungato, perché il tram dopo faceva anche, durante il fascismo, faceva il giro anche in su e si riuniva dietro a, adesso vi faccio vedere dove c'è il monumento alla vittoria, prendeva la via Cadorna, quindi piazza 4 novembre, per via De Freghe. Esatto, quindi tu avevi varie possibilità, era la vecchia via Diaz, esatto, se si chiamava via Fango, non lo so, comunque quella era, faceva questo giro qui, quindi in realtà lo fa anche l'autobus adesso, fa lo stesso giro, e c'era il tram che faceva quel giro lì. Durante il fascismo venne messo, perché durante l'impero austro-ungarico era stato progettato, tirato il binario, messo il binario fino a un certo punto, però il tram arrivava, faceva la curva tra virgolette della nuova via Fago e poi si fermava comunque a metà, perché comunque finivano gli alberghi e i sanatori, quindi bene o male non aveva senso portarlo. Durante il fascismo invece cercarono di fare un discorso diverso, più moderno, ovviamente erano passati anche 30 anni dalla prima realizzazione, quindi avevano, ecco qui è finito. Ricordo che la piazza si chiamava Kaiser Franz Josef, quindi piazza Gries, Kaiser Franz Josef, sì, uno degli imperatori che rimasti più a cuore. Ecco, questo era un altro capolinea che venne però tolto già durante l'epoca fascista. Questo pezzettino venne tirato via, era un capolinea, partiva da qui il tram che andava verso l'Aives, poi venne tirato via per motivi di costruzione in realtà. E questo binario venne poi tolto a metà degli anni 30 e quasi inutilizzato per un... Ecco, questo è il tram di cui parlavamo prima, in piazza della Vittoria c'è una camicia nera in bicicletta e a fianco c'è il tram che si fermava, ho scoperto dove si ferma oggi l'autobus, infatti la rientranza della strada è fatta per quel motivo ed è così ampia, perché anche se non c'erano tante macchine il tram fa più fatica dell'autobus con i binari, quindi la rientranza è bella larga. Non è che io pensavo ai parcheggi, ma in realtà a quel tempo i parcheggi non esistevano per le macchine fatti a spina di pesce, quindi era proprio nel tram che si fermava lì, quell'arco dove via Cesare Battisti, esatto, e poi tagliava, ma lì c'era anche il deposito dei tram, c'era anche il deposito dei tram, adesso no. C'era anche il deposito, sì, lì c'era, esatto, andavano anche in deposito lì, sì. Quanti sono andati per terra con le biciclette passando in mezzo a... Questa era la stazioncina del trenino del Renon, in piazza Walter. Qui c'era il trenino del Renon negli anni 50, però era già stato tolto il tram che vi ho fatto vedere prima. Quindi però era stato mantenuto dove adesso ci sono, no, i gazebi dei vari ristoranti, però era stato mantenuto il trenino del Renon, quindi fino agli anni 60 quell'attrattiva c'era. E infatti questo signore, che appunto è un ingegnere delle ferrovie, che ha scritto questo libro, e lui veniva in vacanza qui con i suoi genitori negli anni 50 e appunto ha preso sia il tram che andava a Gries e ha preso anche appunto il trenino del Renon dalla stazione di Piazza Walter, perché suo papà non gliel'ha fatto prendere da perché si fermava anche davanti alla stazione dei treni, ma gliel'ha fatto prendere proprio dal capo. Qui, ecco, qui è un'altra immagine. Vedete comunque che c'era la corriera, e qui c'era ancora l'altro tram, qui c'era ancora l'altro tram, perché se vedete le macchine in fondo sono posteggiate vicino al binario, quel tempo si poteva mettere lì la macchina, adesso prendi la multa. Questi erano i due binari che andavano appunto verso Gries e andavano appunto verso il tracciato che vi ho detto prima, quindi verso via Cadorna. e qua lo vedete bene, vedete? Un binario che va verso via Cadorna e un binario visto dall'alto si vede bene, visto dall'alto si vede bene, quindi il concetto fu quello. Quindi io sintetizzo, dico che comunque alla fine credo che tutti questi discorsi che vengano fatti in questo periodo qui siano e legittimi, logici, perché sono passati tanti anni, quindi le adesso io faccio svariate battute perché a me piace la storia, quindi tutto quello che è storico mi dispiace se viene tirato via, sono un po' integralista su questo, però secondo me a volte amministratori locali, tecnici locali, architetti locali dovrebbero un attimino andare a rivedere un po' com'era il concetto e il discorso urbanistico della nostra città e di trasporti, perché credo che nella nostra città ci siano già delle soluzioni che possano essere adottate e non bollate, non giudicate o bollate, ma adottate o riviste. Avevo preso l'esempio dell'Euro, che l'altra volta è una costruzione che è stata rivisitata, rimessa a posto, rimodernata. Si può discutere sul discorso del vetro, magari qualcuno può non piacere, però l'architetto lì, che era austriaco se non sbaglio, non ha fatto un cattivo lavoro, ha fatto un lavoro di rimantenimento, ha tenuto la struttura base, quindi secondo me ha fatto un buon lavoro. E io auspico, spero che si crei una memoria storica su questi periodi, perché comunque fanno parte della storia della nostra città, della storia che deve essere condivisa tra tutti i due in questo caso gruppi linguistici, e anche alle persone che arrivano nuove a Bolzano, ce ne sono parecchie, di far capire anche alcuni aspetti della nostra cultura, come si è evoluta in questi anni, perché tutte queste cose hanno portato a quello che è adesso Bolzano, quindi anche un discorso storico di questo tipo secondo me può interessare chi arriva adesso, se no sembra che la nostra città sia molte volte ho discusso, perché sembra che la nostra città sia artificiale, non abbia una storia, se, leggendo anche i libretti che trovi in giro, libri eccetera, a parte qualcuno che ha messo l'anima nel scrivere alcune cose, o perché le ha viste in presa diretta, come anche Ettore Frangipane, che lui ha visto tante cose, giustamente le riscrive, e fa bene, perché comunque ha degli aneddoti che io non posso avere, perché io li posso leggere, lui magari li ha vissuti, quindi mi può raccontare, o può raccontarci, quindi fa bene a fare così, in modo che non vada persa, perché perdendola, secondo me, questa memoria storica si va a impoverire anche il futuro della nostra città, questo è quello che penso io. E l'architettura è un libro di pietra che fa capire come una cultura o come o quali aspettative, cioè noi facendo solo un giro in città e non conoscendo neanche il nome dell'architetto, infatti io ne ho fatti pochi, sennò secondo me diventa una noia. E si può capire dove volevano arrivare queste persone, perché hanno costruito quello che hanno costruito e quale idea c'era dietro. Forse dopo 100 e passa anni si può riuscire a decontestualizzare sia il periodo asburgico, sia il periodo fascista, sia il periodo del boom economico, quindi tutti in Vespa e via i treni, tutti questi periodi si possono fondere e creare quello che è venuto fuori adesso, insomma un periodo misto che ha dato un risultato che io spero, auspico, non sia di nuovo di divisione. Perché già la nostra regione, la nostra città ha avuto svariate divisioni, sia durante il periodo asburgico, perché era stata vietata l'opera nel 14, perché all'opera si parla in italiano, quindi non si poteva, erano state chiuse delle scuole, poi il fascismo si mise addirittura a italianizzare i cognomi, quindi siamo arrivati alla follia da una parte e dall'altra, quindi adesso forse ricostruendo con calma tutto quanto, anche da un semplice binario, si può arrivare secondo me a una storia condivisa, quindi va benissimo Andrea Soffer, va benissimo il tram asburgico, va bene Druso, perché fa tutto parte del nostro pentolone storico, da chi è arrivato qui nel 30, chi è arrivato qui nel 70 comunque ha dato il proprio contributo. Non è più una lotta a chi c'era prima o chi c'era dopo, secondo me a chi ci sarà deve essere fatta questa lotta, non a chi c'era prima o chi c'era dopo, se no non è più finita, andiamo a ritroso. Insomma, io ho visto discorsi strampalati anche su Ozzi, che invece dovrebbe essere un patrimonio storico che è stato ritrovato storicamente, ma viene dalla Valpadana, viene dalle Alpi, viene da lì, ma parlava così, parlava colà, ma aveva questo, ma aveva una bacca che forse No, è una persona, è stata trovata qui, la teniamo qui, punto. E lo abbiamo adottato come Bolzanino, basta, io chiuderei qua la polemica, no? Chiudo anche la conferenza, allora conosci.